Ciao a tutti, cari ascoltatori di Radio Big World. Benvenuti in questa nuova puntata dei Monologhi Esteriori. Come vi avevo preannunciato sul blog, questa puntata sarà dedicata al Natale, quindi lasciamo perdere per un po' i temi pesanti che vi ho propinato e parliamo di una bella festa che si sta avvicinando. Mancano pochissimi giorni ormai a Natale. Avete fatto i regali? Avete scritto la letterina a Babbo Natale? Ah, una premessa. Io non parlerò del significato religioso della festa del Natale, anche se so che è nata da lì, quindi teoricamente bisognerebbe parlare anche di quello. Però io non sono cristiana e vorrei parlare più che altro di come viene considerata questa festa tradizionalmente negli ultimi anni e di che cosa comporta nella cultura popolare. Anche se questo è poco legato alla nascita di Gesù. Spero che mi perdonerete per questo. Allora, dicevo, avete scritto la letterina a Babbo Natale? Forse no, perché come me ormai avete una certa età e avete superato i 10 anni da un po', anzi, ma che dico, ormai già a 7-8 anni non si crede più a Babbo Natale. Secondo me è un peccato perché io vorrei poterci credere ancora adesso. Secondo me la magia del Natale di cui si parla tanto consiste molto in questo. Non tanto nei regali, che ok, sono un modo per dimostrare l'amore che abbiamo per un'altra persona, però quelli si possono fare anche in un sacco di altre occasioni. La magia del Natale e il fatto che sia diventata così importante, così amata dalla maggior parte delle persone rispetto ad altre feste, secondo me consiste nella magia delle storie che vengono raccontate a Natale e che si sono create intorno a Natale. Se ci pensate, attorno alle altre ricorrenze non ci sono così tante storie. Magari Halloween perché ci sono tante leggende, però quello fa più parte della tradizione anglosassone. Per noi italiani, soprattutto, ci sono leggende di Babbo Natale, in primis, della Befana, di Santa Lucia e di San Nicola in certe regioni. E poi ci sono tantissime storie che sono state scritte a partire dalla ricorrenza del Natale, usata come ambientazione e come significato della storia. La più famosa è il Canto di Natale. Però ce ne sono anche altre, come ad esempio la fiaba dello schiaccianoci e del re dei topi, che io non lo sapevo, però è stata scritta da Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, che io ho pronunciato all'inglese anche se era tedesco, quindi probabilmente non va pronunciato così, ma spero mi perdonerete, e che è una storia abbastanza inquietante nella versione originale, inquietante come piacciono a me. Ma dato che il Natale non è dedicato alle cose inquietanti, vi risparmio questi dettagli e vi voglio raccontare la parte iniziale di questa storia dello schiaccianoci. Che, ok, non è un monologo teatrale. Purtroppo non ci sono molti testi teatrali dedicati al Natale. Però comunque è un racconto che può essere recitato e narrato, non semplicemente letto, ma proprio raccontato a voi spettatori, come se fosse una storia per cercare di farvi entrare dentro queste emozioni. E questo è proprio il mio intento, quello che vorrei fare è cercare di farvi tornare un po' bambini leggendovi questo inizio del secondo capitolo della storia dello schiaccianoci. Ma prima un po' di atmosfera. Vi presento la lettura. Mi rivolgo a te, gentile lettore o ascoltatore, Fritz, Theodor, Ernest o qualunque possa essere il tuo nome. E ti chiedo di riportare chiaramente agli occhi della tua mente il tavolo che hai visto lo scorso Natale. Magnifico, è pieno di bellissimi regali di Natale, tutti diversi. Ecco, forse allora sarai capace di formarti un'idea del modo in cui i due bambini erano rimasti immobili e senza parole, fissando lo sguardo su tutte quelle cose bellissime. E di come dopo un po', Marie, con un sospiro, gridò: «Oh, com'è grazioso! Com'è grazioso!» E di come dopo un po', Marie, con un sospiro, gridò: «Oh, com'è grazioso! Com'è grazioso!» E di come Fritz saltò diverse volte per la gioia. I bambini dovevano certamente essere stati molto, molto buoni ed essersi comportati davvero bene per tutto l'anno precedente, per essere ricompensati così. Non c'erano mai stati così tanti bei regali per loro come questa volta. Il grande albero di Natale sul tavolo era decorato con molte mele d'oro e d'argento, e i suoi rami erano carichi di boccioli di fiori fatti di mandorle zuccherate, bonbon variopinti e ogni sorta di delizia da mangiare. Tutto intorno l'albero, su ogni lato, brillava e scintillava nel modo più incantevole. Oh, quanti bellissimi regali c'erano! Chi potrebbe descriverli tutti? Questa è la descrizione che c'è all'inizio della fiaba dello schiaccianoci, prima ancora che i due bambini, due fratelli, Fritz e Marie, ricevano in regalo appunto lo schiaccianoci, che poi sarà protagonista di tutto il sogno che andranno a vivere la notte di Natale. E attraverso i loro occhi di bambini riusciamo a vedere tutta la magia di questi regali, le lucine dell'albero decorato con le mele d'oro e d'argento, gli scintilli, la carta regalo, le cose da mangiare, le cose buone che si mangiano a Natale. Spero di essere riuscita a ricordarvi un po' come vi sentivate da bambini in queste occasioni, perché non so se è così per tutti, ma per me e per la maggior parte delle persone con cui ho parlato, il Natale è molto più magico da bambini, perché appunto crediamo in queste storie fantastiche che ci vengono raccontate. Crediamo a Babbo Natale, crediamo che scrivendo una letterina possiamo chiedere di esaudire un desiderio, e poi ci sembra magico anche il fatto che siamo lì con i nostri genitori che passano a casa tutta la giornata con noi invece di andare a lavorare, che riceviamo dei regali, che possiamo passare il tempo in casa a decorarla con questi bellissimi fiocchi, palline dorate e argentate, queste decorazioni di vischio, di agrifoglio. È un periodo magico per i bambini e da grandi lo diventa un po' meno, perché non crediamo più in Babbo Natale e perché c'è tutto lo stress di comprare i regali per gli altri. Però io quest'anno sto provando a rientrare un po' in questa atmosfera bambinesca del Natale, perché lo so che purtroppo Babbo Natale non esiste, però vorrei comunque cercare di rivivere questa magia dello stare insieme in famiglia, decorare la casa, preparare da mangiare insieme, farsi i regali, perché anche se non vengono da Babbo Natale, per me è bello regalare alle persone a cui voglio bene qualcosa a cui ho pensato, che ho confezionato con amore e che spero possa farli felici. E lo stesso loro per me. Poi mi ricordo che quando ero piccola i miei si divertivano tantissimo a farci credere nella storia di Babbo Natale. Lasciavamo sempre il bicchiere di latte e la fetta di panettone perché Babbo Natale, quando entrava in casa per portare i regali, si potesse rifocillare, e ovviamente se li beveva e mangiava mio papà. E poi una volta, me la ricordo ancora benissimo, mio papà era andato fuori sul terrazzo che era pieno di neve perché aveva nevicato, aveva fatto i segni della slitta con gli sci e aveva lasciato una carota mezza mangiucchiata per far finta che fosse stata una delle renne a lasciarla lì. Ecco, questi ricordi qui sono veramente delle cose a cui sono molto affezionata perché mi sembrava di vivere un po' in un mondo magico, un po' al confine tra la realtà e la fantasia. Adesso che siamo adulti, stiamo un po' troppo verso la parte della realtà. Io mi sento decisamente troppo verso la parte della realtà e anche il Natale è diventato tutto un correre per organizzare, comprare i regali, organizzare il pranzo, mettere d'accordo tutti i parenti e mi piacerebbe quest'anno provare a prendermi un po' di tempo per guardare un film in famiglia e rituffarmi in questa atmosfera giocosa e fantasiosa, leggermi qualche libro e soprattutto passare il tempo con la mia famiglia, concentrandomi su di loro senza farmi prendere dalla frenesia delle feste. E sì, di certo non posso ritornare bambina, però almeno un pochino di quella sensazione di magia del Natale che c'era tanti anni fa, vorrei provare a ritrovarla in questo calore familiare, in queste lucine che brillano e sentire che forse c'è ancora un po' di magia là fuori se io provo a crederci e a inventare qualche storia. Perché comunque Babbo Natale, ok, fisicamente non esiste, però la magia di Babbo Natale sta nella magia della storia e in quello che ci fa immaginare e sognare. Quindi possiamo dire che un pochettino Babbo Natale esiste. Ecco, spero che questo delirio natalizio non vi abbia annoiato, effettivamente era più un discorso fatto a ruota libera sui miei ricordi dell'infanzia legati al Natale, a quello che penso io che dovrebbe essere il Natale. Se volete, raccontatemi sul mio blog che cosa pensate voi del Natale, se vi piace, che cosa farete quest'anno, che cosa facevate da bambini. Vi aspetto la settimana prossima, sempre qui su Radio Big World. Buon Natale a tutti!